e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci Deborah. Sì. Come va? Abbastanza bene, grazie. Non posso lamentarmi. Allora, salutiamo anche chi ci sta seguendo da casa. Come sta andando la vostra settimana? Da dove ci state seguendo? Da casa, dalla macchina, dal camion, dal taxi? Diteci voi al 349-238-6666. Diteci da dove ci ascoltate, così facciamo insieme un giro virtuale lungo lo stivale, ma usciamo anche oltre i confini, perché Deborah, riceviamo spesso molte mail anche di ascoltatori che ci seguono da paesi vicini e lontani. Dall'estero, esatto. Vero? Persino ho saputo ieri che Alessandro Milan li sta analizzando molto attentamente, perché vorrà anche sentirli magari proprio la mattina presto, se sono da tutt'altra parte del mondo, o capire un po' che cosa provano anche a sentirsi raccontare tutte le notizie che arrivano dall'Italia. Allora, la settimana sta volando, perché siamo a giovedì e immagino che come noi stiate un po' ritrovando il ritmo. Questa settimana, lo sapete, abbiamo dedicato ampio spazio alla ripresa proprio su questo tema. Abbiamo ricevuto diverse mail che ci chiedevano suggerimenti per tornare a riposare bene, perché la magia e il relax delle vacanze sono finite e la qualità del nostro sonno sembra averne risentito. Ieri abbiamo parlato di genitori che sono preoccupati per il valzer degli insegnanti, ma probabilmente ad agitare le loro notti c'è anche il pensiero di far riprendere ai figli il giusto ritmo. Lo sappiamo per esperienza, ma anche le ricerche lo confermano. I ragazzi sono sempre connessi giorno e notte tra WhatsApp, social vari e chat, riposano poco, alla mattina si svegliano che sono più stanchi di prima. In vacanza logicamente abbiamo lasciato correre, ma adesso la scuola ricomincia e bisogna evitare che vadano a scuola a scaldare i banchi, perché i banchi ci sono, no? I professori magari non tutti, ma i banchi ce li abbiamo. Speriamo soprattutto che ce li abbiano i ragazzi di Amatrice. Ritorniamo sempre con un pensiero a loro. Allora, se avete adolescenti in casa, le prese con risvegli difficili, 800 24 00 24, ma ci occuperemo anche del sonno dei piccoli e di quello dei loro dei genitori, e perché anche no, dei loro nonni. Ogni età ha il suo sonno e il sonno cambia con l'età. Voi ve ne siete accorti, immagino. Allora chiamateci, raccontateci, diceci come riposate, notate delle differenze sulla qualità del vostro sonno rispetto a quando eravate in vacanza, o anche rispetto ai giorni, tra giorni lavorativi e weekend, perché finalmente il primo weekend si avvicina. Deborah, tu che voto dai al tuo sonno? 5,5-6, non sono una dormigliona, devo dire. Sei una lodola come me. Sono una lodola, e però sono una di quelle che fortunatamente non ne soffre particolarmente poi durante la giornata, per cui diciamo che mi va bene. Evidentemente il mio DNA ritiene che sia sufficiente questo numero di ore di sonno. Brevi dormitori oppure lunghi dormitori? Noi siamo brevi dormitori. Allora, visto che mi hai chiesto peraltro di dare un voto al mio sonno, a proposito di voti e di scuola, mi collego subito ricordando a Nicoletta, naturalmente, ma lo sa già bene, e ai nostri ascoltatori, che nella seconda parte della trasmissione, oggi è giovedì, riapre la nostra scuola di risparmio, torna la rubrica Investire informati, e noi oggi riprendiamo con un nuovo interlocutore, perché seguiremo il percorso di una legge allo studio del Parlamento per promuovere l'educazione finanziaria in Italia. Quindi prestate attenzione, perché la consapevolezza sui temi finanziari ci riguarda davvero tutti da vicino. Abbiamo in costruzione questo soggetto che coordinerà un po' tutte le iniziative in Italia, si chiama proprio Comitato per l'Educazione Finanziaria in Italia. Dando intanto uno sguardo veloce all'andamento della borsa, oggi hai letto nel pensiero a Mauro. Ah, sì, RC. Cosa dice? Si lamentava delle borse, scalpitava, invece che alle 10.30 l'abbiamo data alle 10.38, mamma è viva! Per carità del cielo, allora accontentiamolo subito. Giornata oggi interlocutoria, perché c'è attesa per la Banca Centrale Europea che si riunisce oggi. Mario Draghi comunicherà cosa vuole fare sui tassi, rimarranno naturalmente fermi, ma soprattutto dirà che cosa vuole fare, se intende adottare nuovi stimoli monetari per far riprendere nell'economia e soprattutto l'inflazione. Lo sapremo intorno alle 14.30. Intanto Milano guadagna lo 0,4%. I tre migliori titoli: Monte dei Paschi, Salvatore Ferragamo e Popolare di Milano. Allora, intanto io ti dico che ci è arrivato un abbraccio da Oscar. Dov'è? Che ci ha mandato un messaggio al 349-238-6666 da Stanley Hong Kong, mentre un altro ascoltatore, questa volta è Alessandro, è molto più vicino, ci saluta, è a Venezia sul suo camion bloccato e ci racconta che sulla branda del camion non si dorme bene, quindi alla schiena a pezzi. Allora Alessandro, questa puntata nella prima parte troverà dei consigli utili, resti con noi, speriamo che si sblocchi sia la viabilità che la schiena di Alessandro. Eccola qua, no? E questo è uno dei gesti, tump, che ci fanno toccare con mano che le vacanze sono finite, la sveglia suona e bisogna buttarsi giù dal letto ed è dura, ma lo è ancora di più naturalmente se la notte è stata difficile, quindi si fa fatica ad alzarci ed è un attimo mettere giù quindi il piede sbagliato e rovinarsi la giornata. Ma attenzione, se adesso volete un risveglio diverso potete provare la sveglia 2.0. ormai si sa, Deborah, no? Gli smartphone fanno tutto di più, no? Tra poco faranno anche la depilazione. Allora, in questo caso gli smartphone aiutano a svegliarci. L'applicazione si chiama Wakie, scritto Wakie, e per i suoi ideatori è una community di persone che si svegliano l'un l'altro la mattina. È una sorta di piccolo social network che divide il mondo in due categorie: i mattutini, Wakie, e i tiratardi, Sleephead. Il meccanismo è semplice: basta scaricare l'app, ci si iscrive col proprio cellulare e si punta alla sveglia per il mattino dopo. Al momento fatidico arriverà una chiamata e dall'altra parte la voce di uno sconosciuto, donna o uomo che sia, ci sveglierà. Insomma, Deborah, noi siamo due allodole, potremmo essere noi a svegliarli. Ma io vorrei provarlo lo stesso comunque. Abbiamo fatto una sorta di test, provato per voi, che magari potrebbe essere anche un'idea per la nostra trasmissione. Quindi chiediamo anche agli ascoltatori che cosa vogliono che proviamo per loro. E il nostro amico Enrico Paglia, il Paglia, detto cioè ufficialmente Enrico Pagliarini, ha provato questa applicazione e ci verrà a raccontare. Intanto, da chi vi piacerebbe ricevere il buongiorno, o al contrario, con che frase voi dareste la sveglia? 800 24 00 24, candidatevi come buongiornini, noi vi aspettiamo. C'è intanto il buongiorno di José, che ci scrive dalla Spagna: io vi seguo da qua, sono spagnolo, imparo l'italiano da qualche anno, mi piace Radio 24, soprattutto la vostra trasmissione, Nicoletta e Deborah siete simpaticissime. Bravo, buongiorno, ma vedi, gli spagnoli, più bel buongiorno che cuore di questo. Grande. Buenos dias. Allora, noi torniamo a svegliarci, ma sicuramente non avrà bisogno di consigli su come svegliarsi bene il nostro ospite, il dottor Lino Nobile, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano, che di sonno e dintorni è un grande esperto, oltre che essere un amico di Cuore Denari. Buongiorno dottor Nobile, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Lei si sveglia senza sveglio o con la sveglia? Sembra uno scioglilingua. Mi sveglio sempre un paio di minuti prima che suoni la sveglia. Ormai ho imparato, esatto, perfettamente. Io potrei fare a meno di metterla, esatto. Io anche prima dei due minuti, direi, un bel po' prima. Ecco, il problema è che poi questa sveglia interna, biologica, ecco, rimane anche quando noi non vorremmo svegliarci. Per cui se siamo abituati, dottor Nobili, è così, a svegliarci sempre, a puntare la sveglia alle 7, anche il sabato e la domenica, e magari non dovremmo svegliarci proprio a quell'ora perché possiamo goderci, no, qualche ora di sonno in più, non troppe, noi tac, apriamo l'occhio, è normale, fisiologico. Assolutamente fisiologico, il nostro organismo impara un orologio interno che si piano piano si sincronizza, dipende molto anche da soggetto a soggetto, è anche un po' un segno di invecchiamento, devo dire, il giovane può anche fare a meno di avere questo orologio così interno, così preciso, può anche dormire molto più a lungo. Per noi ormai abbiamo allenato per molti anni il nostro orologio, quindi per fortuna però funziona bene, è importante che funzioni bene. Allora, dottor Nobili, noi l'abbiamo chiamata, abbiamo detto: dottor Nobili, abbiamo bisogno di lei perché lei non sa quante mail sono arrivate di nostri ascoltatori che lamentano al rientro di avere problemi di sonno. In vacanza si riposava meglio, anche se magari si dormiva un po' meno perché si faceva tardi la sera, e il ritorno, il rientro diventa sempre più difficile. D'altra parte i numeri raccontano che la mancanza di sonno è un problema molto serio, riguarda circa 12 milioni di italiani. Insomma, questa è la prova evidente che dormire, anche se è un bisogno primario perché il sonno svolge tante funzioni, non è poi sempre facile come può sembrare. E d'altra parte il sonno ha una sua architettura ben precisa, ma è un attimo che qualche cosa vada per traverso, e quindi ecco le notti agitate, i risvegli, quella fatica che avvertiamo quando ci alziamo al mattino, il bisogno che ci piacerebbe molto di schiacciare magari un pisolino. Dottor Nobili, siamo nelle sue mani. Ma sì, sicuramente il sonno è un fenomeno fantastico, un processo dinamico con continue transizioni al suo interno che avvengono in un equilibrio molto complesso e che ci permette di recuperare, per mettere ristoro non solo del nostro cervello, ma anche di altre attività legate ad altre funzioni, sto pensando per esempio agli ormoni, il sistema immunitario. Per fortuna nella maggior parte dei casi il sonno è un fenomeno spontaneo, nasce ed evolve in maniera fluida. Tuttavia, come diceva, se c'è qualcosa di fattore esterno e interno che lo disturba, può frammentarsi il sonno e quindi lì si possono avere effetti negativi che poi a loro volta sono più o meno evidenti a seconda del soggetto e soggetto. Ci sono persone che sono molto più facilmente perturbabili e influenzabili dal disturbo del sonno. Chiediamo naturalmente ai nostri ascoltatori come hanno dormito in vacanza, sveglio, risveglio libero, e adesso come state dormendo. Se siete dei genitori, avete a che fare con adolescenti e preadolescenti che volenti o nolenti tra poco torneranno a scuola e dovranno fare i conti con una sveglia anticipata rispetto a quella dei mesi di vacanza, poveri genitori, mi verrebbe da dire: dottor Nobili, ecco, chiamateci e raccontateci perché. Perché ogni età ha il suo sonno e l'età cambia con il sonno. Dottor Nobili, ci dia qualche indicazione. Ma sì, certo, questo è un altro aspetto molto bello del sonno, cioè il sonno segue proprio l'evoluzione dell'uomo, e nel senso, noi sappiamo benissimo, il neonato dorme chiaramente diverso, non ha un sonno che è sincronizzato col ritmo luce buio. La luce e il buio sono dei importantissimi sincronizzatori del sonno e hanno bisogno di uno sviluppo di certi centri del cervello, e che il neonato non ha ancora. Poi il sonno diventa con il pisolino pomeridiano, che poi piano piano se ne va, e poi a un certo punto si accorcia piano piano con l'età adulta, e poi quando diventiamo anziani di nuovo ritorna a essere un po' più simile a quello dei bambini, ricomincia a ripresentarsi più frequentemente il sonno durante il giorno. Quindi ogni età ha una sua durata e una sua distribuzione nell'arco 24 ore. Gli adolescenti poi sono particolari, perché avrebbero in realtà molto più bisogno di sonno in quel particolare momento della loro vita, tuttavia poi gli aspetti sociali fanno sì che spesso loro dormano meno. Per fortuna il cervello è elastico e gli adolescenti hanno possibilità di recuperare. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Intanto Gianni da Bologna ci scrive: dormo malissimo e non posso farci niente, 4 ore al giorno e sono a pezzi. Anche c'è Marco, è un'altra lodola, dice si sveglia tutti i giorni alle 5 e gli succede anche nei giorni di festa, con grave disappunto naturalmente. Ecco, c'è molta, noto una sorta di rassegnazione, dormo male, non ci posso fare niente e ne pago le conseguenze. In realtà non buttatevi via, ci sono sempre delle possibilità per migliorare la qualità della nostra vita, e partendo proprio dalla qualità del nostro sonno. Ne parliamo subito dopo con il dottor Nobili, ma adesso informazioni sul traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Cuore e Denari. Ah, il suo liberale l'ho fatto io, vai tu. Notte, ho avuto un incubo. Tutto cominciò alle 3 di notte. Cliff? Ah? Stai mangiando un sandwich con salsiccia? Tesoro, è tardi, continua a dormire. Eppure lo sai che un sandwich così fai fatica a digerirlo. La notte piccola per noi. Insufficiente, frammentato, agitato, leggero sono aggettivi che usiamo per il nostro sonno quando insomma non ci soddisfa, e non soddisfa una persona su tre. Ne stiamo parlando oggi col dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano, e aspettiamo i vostri interventi al numero verde 800 24 00 24 per dirci anche come vi siete svegliati questa mattina. E vi stiamo chiedendo anche, sull'esempio dell'app Woki, chi vi piacerebbe svegliare o da chi vi piacerebbe essere svegliati, quale frase vi piacerebbe utilizzare. Dottor Nobili, la storia è piena di artisti, generali, statisti, scienziati che riposavano solo poche ore per notte, e questo non ha influito minimamente sulle loro capacità, sulle loro scoperte, sulle loro azioni. Questo significa che dormire poche ore di per sé non è un problema, ma è importante che il sonno sia ristoratore, sia un sonno di qualità. Noi possiamo tutte le mattine nel corso della giornata fare una sorta di prova del 9 della qualità del nostro sonno. Se abbiamo sonnolenza diurna, forse qualche cosa non funziona. È così, dottor Nobili? Sì, assolutamente, è proprio questo. Non bisogna partire dal preconcetto di quante sono le ore che uno deve dormire. Ognuno ha la sua quantità, che può essere variabile. Il maggiore indicatore di come va il sonno è come ci si sente di giorno. quindi che si può manifestare con la sonnolenza, ad esempio una sonnolenza dopo 2 ore dal risveglio indica che qualcosa non va, certo, se la persona ha dormito in media le sue quantità di ore, ma anche non solo può essere sonnolenza, molti insonni non hanno mai sonnolenza, può essere semplicemente disturbi dell'attenzione, capacità di rimanere concentrati sulla cosa che stanno facendo e qualche volta anche qualche problema di memoria. Le prime cose che se ne vanno sono un po' i nomi delle persone e delle cose dopo la deprivazione di sonno. Perché il sonno ha questa, tra le tante proprietà, quella di funzionare un po' come di spazzino delle tossine del nostro cervello. Sì, questo è un altro ruolo che diventa sempre più evidente, cioè durante la notte alcune nostre sostanze che si accumulano, che sarebbero tossiche per il nostro cervello, vengono proprio attraverso gli spazi cosiddetti, si dicono, interstiziali, vengono buttate fuori, quindi il cervello durante la notte subisce una pulizia in funzione di quanto sonno profondo noi facciamo, quindi si capisce l'importanza del sonno anche per un buon invecchiamento, diciamolo così. Abbiamo in linea Lucilla da Brescia, perché vuole chiedere un consiglio al dottor Nobili. Le diamo il benvenuto. Lucilla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, ci racconti. Ma nulla, io volevo solo raccontare così la mia esperienza. Una bimba di 7 anni che dovrà tornare a scuola lunedì, ma dopo questo periodo di vacanze naturalmente ancora fissata con l'orario estivo, quindi non c'è verso di farla addormentare pur provandoci prima delle 11. Quindi io, anche se provo a metterla a dormire 9:30, 9:45, metterla nel letto, tanto lei non si addormenta. Logicamente dormendo tardi si sveglia tardi e quindi il ciclo è allungato. Allora ho pensato, lunedì comincerà a svegliarsi di nuovo alle 7:30 e così martedì, mercoledì e piano piano immagino che svegliandosi prima la sera... Poi alla fine crolla. Crollerà per forza. Allora ce l'auguriamo, dottor Nobili. Cosa ne pensi? Il problema della signora ce l'hanno quasi tutti i genitori, ed è assolutamente normale che sua figlia non riesca a prendere sonno se la manda a letto alle 9:30, anzi forse in questo momento farlo, o uno lo fa molto un pochino piano piano nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, cosa impossibile, o altrimenti forse può essere controproducente, perché dopo allora la bambina comincia a sviluppare la voglia proprio di non andare a dormire, la paura di non addormentarsi. Come dice lei, svegliandosi presto al mattino farà molta fatica, ma alla fine avrà una deprivazione di sonno che sarà utile per risincronizzarsi nei giorni successivi. Maria da Caltanissetta, buongiorno. Buongiorno cari, grazie per la possibilità. Cara lei, allora... Maria, ho letto l'anticipazione del suo problema e sono solidale. Maria. Grazie. Allora, io faccio l'informatore scientifico. Mi passo molto tempo in strada e ho bisogno di dormire tanto. Fino a prima di sposarmi riuscivo ad andare a letto presto e ad addormentarmi anche alle 9, alle 9:30 e dormire fino alle 5:30, 6 che è l'orario in linea di massima nel quale mi devo svegliare per forza di cose, ma riuscivo a riposare. Adesso c'è un problema, mi sono sposata e mio marito russa così tanto da non consentirmi di dormire bene, perché se anche io vado a letto prima di lui e mi addormento, lui la sveglia. Dopo io mi sveglio, il motore lì si accende. Questo mi determina nervosismo e poi stanchezza, perché quando guido mi viene giù il sonno, quindi magari alle volte mi metto anche in corsia, diciamo in sosta, soprattutto subito dopo pranzo, indipendentemente da quanto io abbia mangiato o se abbia mangiato, quindi se l'orario è tra le 2:30 e 4, certo, io ho bisogno di accostarmi con la macchina e di dormire anche 10-15 minuti, giusto tempo di riprendermi dalla botta. Ecco. Adesso ho provato i tappi e un po' va meglio, ma mi chiedevo, questi tappi mi fanno bene? Dottor Nobili, abbiamo Carmelo che sta che si è addormentato ascoltandoci, mi alzo e lo vado a prendere a schiaffi. È il marito di Maria, fosse così, solamente così delicato, dottor Nobili, questi mariti ogni tanto sono da buttare, vero? Si dovrebbero rottamare. Sì, è l'altra faccia del russamento, all'inizio può soffrirne di più il partner del paziente di cui... diciamo soffre del disturbo primario, quindi è chiaro, questa è una cosa molto frequente, succede molto spesso. Se con i tappi ha un beneficio, chiaramente il sonno si abitua dopo a essere un pochino difeso dall'ambiente esterno, diventa un pochino più debole, nel senso che nel momento che non c'ha i tappi fa più fatica a dormire, anche se il marito non russa più. Però in questo momento direi che è una buona modo per sopravvivere. L'altro è molto più sì, drammatico, è quello di cambiare la stanza. Eh sì, e mandare il marito a dormire sul divano, perché lui che russa, esatto. Magari cambiando posizione. Noi invece non cambiate, restate con noi, il nostro giornale radio, e poi di nuovo insieme tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Cuore e denari. E svegliarsi la mattina. Allora, se ci state ascoltando, siete svegli. Questo no, ce lo auguriamo. Ecco, non vi abbiamo fatto ancora addormentare. Vogliamo sapere come vi siete svegliati stamattina, perché oggi parliamo della qualità del nostro sonno. E a proposito di sveglia, vi abbiamo parlato di un'applicazione che aiuta a svegliare i più pigri. Si tratta di Walkie Walkie, non so come pronunciarlo, si scrive con la V doppia A. L'ha provata per noi il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno. Allora, sei stato svegliato da uno sconosciuto. Da una macchina. Cannaggia, dai. Allora, ho fatto la prova. Allora, diciamo che è un social network, fondamentalmente. Tu ti iscrivi al social network e puoi fare varie cose. Tutto gira attorno alla sveglia. E certo. Quindi tu puoi essere svegliato oppure puoi svegliare. Questo... E la logica è... Tu di fatto si attiva una chiamata e puoi svegliare una persona con la tua voce, una persona sconosciuta. Certo, è quello il bello, no? Io questa mattina attorno alle 7:30, cioè avevo prenotato avevi la sveglia. Puntato lo sconosciuto alle 7:30. La sveglia. Però mi ha svegliato, evidentemente non si è trovato nessuno in lingua, io avevo specificato in lingua italiana, insomma speravo di trovare una persona italiana, e invece non è successo. Nel in senso Italia che, forse questa applicazione non è mi molto ha svegliato conosciuta. Una macchina con una voce femminile automatica che mi diceva ben svegliato, come hai dormito, però non potevo, infatti io ho provato a interagire. Sembra chiedere un appuntamento, ma non ha accettato. Verrebbe da dire riprova, sarei più fortunato. Domattina riproverò. Domattina riproverò. Dicevo, poi ti invita ovviamente a partecipare a questo, perché io non mi sono ancora reso disponibile a svegliare qualcuno. Questo lo vorrei fare io. Io e Deborah siamo sveglie. Cosa facciamo? Al mattino? Iscriviamoci anche io e te, poi la mattina facciamo una piccola riunione di redazione prima di venire qua. Il problema è che se trovi uno logorroico, non solo ti sveglia, ma ti tiene al telefono 5 minuti per chiederti delle cose. Però, insomma, bisogna comunque provare. Tu fatti svegliare, così ci racconti, ma soprattutto riposa bene, perché domani poi riparte 2024 alle 22. Esattamente. Quindi bello, fresco e riposato, e se no ti chiamo io, ti chiama Deborah. Comunque, Enrico. Allora, questa mattina... Enrico! Prenoto la... Una di noi due. Chiamo il centralino del Sole 24 Ore e vi faccio chiamare. Senti, domattina. Un ascoltatore ci ha scritto che se fosse svegliato da Belen scatterebbe subito in piedi. Lui che invece è risvegli molto lenti, per cui Belen potrebbe registrare una sveglia. Pensa quanti soldi farebbe, no? Anche un'idea. Se è registrata, tac, la sveglia di Belen. Eh sì, le manca pure questa. Mamma mia, se ci rubano l'idea. Grazie Enrico. Vado di là e vi ascolto. Va bene. Bravo, hai fatto, fai un'ottima scelta, un'ottima decisione. Ascoltiamo anche i consigli del dottor Nobili. Dottor Nobili, in chiusura, dei consigli per chi fa fatica ad addormentarsi e inizia già quindi a farsi prendere dall'ansia. Anche stanotte non dormo e gira, rigira, come un, no? Come un pesce sull'acquaio. Dottor Nobili, che si fa? Che diciamo che non è così semplice dare un consiglio immediato, di sicuro quando inizia così la paura del non dormire si è già un pochino entrati nel vicolo cieco e quindi si incominciano a fare sempre dei comportamenti che sono errati. Una delle prime cose da fare è quella di evitare che si crei quel pensiero adesso devo dormire. Se succede quello bisogna assolutamente anzi alzarsi dal letto, fare qualcos'altro e smetterla di provare a dormire, il sonno deve arrivare spontaneamente. Ecco, quindi non agitatevi, non continuate a rigirarvi sul letto, nel letto alzatevi e fate qualcos'altro. Come primo messaggio direi che questa è la prima cosa, poi bisognerà sicuramente approfondire. Ma c'è chi invece si sveglia prima del tempo e non riesce più ad addormentarsi. Anche lì bisogna considerare, perché uno può essere semplicemente come Deborah, un corto dormitore e poi star bene di giorno, quindi la domanda da fare è ma di giorno come sta? Se chiaramente invece si sveglia dopo 2 o 3 ore e poi magari rimane a letto e si rigira e non riesce più a dormire, può darsi che ci sia proprio qualche cosa che provoca il risveglio. Una domanda molto semplice che io faccio sempre, specialmente a chi russa anche un po', è se quando si sveglia si ritrova per caso supino. Se uno nota che si sveglia sempre supino, c'è da chiedersi se non sia proprio lo stesso russamento e qualche piccolo disturbo del respiro che provoca il risveglio stesso e quindi lì bisogna approfondire. Oppure se ci si sveglia per delle scossette, dei sussulti, bisogna vedere se non esiste un disturbo come le gambe senza riposo, il miocco notturno, quelle cose che di cui abbiamo parlato tante volte. Potete trovare naturalmente indicazioni andando sul nostro archivio. Per chi ha continui risvegli, dottor Nobili, poi la saluto? Questo è l'aspetto più importante. Se ci sono continui risvegli bisogna assolutamente approfondire. Di solito quando è così e poi di giorno ci si sente stanchi, c'è quasi sempre un disturbo, noi chiamiamo intrinseco del sonno, che va approfondito con esami strumentali ed è meglio quindi prima di tutto fare una valutazione clinica in un centro specializzato. Dottor Nobili, io la ringrazio per essere stato con noi. So che dico ai nostri ascoltatori di mandarci le loro richieste, ne sono arrivate tante, non abbiamo potuto passare tutte le telefonate. Dottor Nobili, grazie, buon lavoro e buon riposo anche a lei. A volte noi vogliamo dormire, ma è proprio di notte che il nostro sonno viene disturbato da continui dolori, dolorini, tensioni, crampi. In occasione della giornata mondiale della fisioterapia che si celebra proprio oggi, noi abbiamo chiesto al nostro esperto, a Simone Cecchetto, che è un fisioterapista dirigente dell'Associazione Italiana Fisioterapisti, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, di darci dei consigli e quindi se, dottor Cecchetto, lei è pronto, tra poco noi la metteremo, la registriamo al volo e metteremo naturalmente tutta la sua intervista sul sito, ma voglio dire ai nostri ascoltatori che troveranno tutte le indicazioni. Quindi se il vostro sonno è doloroso durante il riposo, avete male al collo, male alle spalle, vi svegliano dei crampi, al mattino avete mal di schiena, sentite l'intervista che faremo al dottor Cecchetto, che volevamo mandare in onda ora, ma è un'intervista approfondita, quindi con tanti consigli. Il dottor Cecchetto ne ha preparato una più del diavolo, ma vogliamo ricordare che, mi piace ricordarlo, che oggi è la giornata mondiale della fisioterapia. Questa sarà anche l'occasione per consegnare la prima tranche dei contributi raccolti per i terremotati dai soci al comune di Amatrice, quindi voi cominciate dalla solidarietà. E anche per questa, una curiosità, per questa vostra giornata anche voi avete puntato sulle cartoline. Insomma, le cartoline, è l'anno delle cartoline, Deborah. Eh sì, dopo il Facility Day, però le vostre hanno forse miglior fortuna rispetto alla campagna del Ministero della Salute. Sono 57 come gli anni dell'associazione. E un'altra informazione che voglio darvi è che tante volte voi ci chiedete a chi rivolgersi, a fidarsi alle mani giuste, sul sito dell'AIFI trovate tutto l'elenco del fisioterapista qualificato, cioè una persona laureata che sa prendersi cura della nostra salute, è competente nel farlo. Dottor Cecchetto, mi rendo conto che l'ho invasa di parole, ma volevo dare queste informazioni e lascio a lei tutte le indicazioni e i dettagli nella nostra intervista per i nostri ascoltatori che sentono muscoli e articolazioni un po' dolenti e questo impedisce loro di riposare bene. Dottor Cecchetto. Grazie mille. Allora, ci sentiamo nell'intervista e rimandiamo al sito lemanigiuste.aifi.net, alla pagina Facebook dal fisioterapista per trovare tutte le informazioni che lei ha appena citato. Grazie mille. Allora, sul sito di Cuore Denari, sulla pagina di Cuore Denari, l'intervento del dottor Cecchetto. Cambiamo argomento? Volentieri. Giovedì, allora, speriamo che il tema che vogliamo affrontare adesso non risulti troppo soporifero per i nostri ascoltatori. Per qualcuno in realtà queste tematiche lo rappresentano e noi oggi vogliamo un po' provare anche a cambiare questo approccio che si ha nei confronti delle tematiche finanziarie. Quanto ne sanno gli italiani di finanza? Si sa? Si dice, ci sono tanti incontrovertibili dati su questo, che le famiglie italiane riescono ancora, nonostante la crisi degli ultimi anni, a mantenere un'alta propensione al risparmio, però mostrano anche molta meno sicurezza quando si tratta di dimostrare la conoscenza degli strumenti finanziari su cui investono. È un problema noto da tempo, possiamo proprio definirlo un nervo scoperto per la collettività italiana e in particolare scopriamo appunto che questo nervo è scoperto quando si ripetono i casi di risparmio tradito e non parliamo solo dei vecchi tango bond, delle vecchie azioni Parmalat o obbligazioni Cirio, ma insomma i casi sono frequenti, non ultime le famigerate obbligazioni subordinate delle banche risolte a novembre. Non ci sono però solo questi problemi, come vi dicevo spesso non si capisce la dinamica del mutuo, l'estratto conto è il documento più misterioso della nostra esistenza, non apriamo neanche la busta quando arriva a casa. Affrontare una chiacchierata con un promotore finanziario spesso viene percepito come un atto in cui ci si deve difendere da chi vuole solo mettere le mani sul nostro denaro per guadagnarci a sua volta e non invece come un dialogo costruttivo con una figura capace di fare non solo i nostri interessi ma anche quelli di tutta la nostra famiglia. Allora, come vedete, il tema dell'educazione finanziaria ha tante decine e decine di implicazioni ed è proprio da questo tema così delicato ed importante che riprendiamo i nostri giovedì del risparmio. Investire informati. Vado a presentarvi subito gli ospiti di questa prima puntata a cavallo tra l'estate e l'autunno, no Nicoletta? Quindi li ho svegliati secondo te un pochino oppure li ho fatti riaddormentare tutti quelli no, che ci ascoltano? Li hai svegliati, stimolati, alluzzati. Ecco, le antennine guarda, dritte. Quando conosceranno la nostra prima ospite di oggi vedrai come si svegliano. Benvenuta Claudia Segre, presidente del Global Thinking Foundation. Sì, della Global presente. Esatto. Buongiorno a tutti. Perché è una fondazione, è femmina e quindi a maggior ragione ci fa piacere che sia qua. Saluto e ringrazio anche particolarmente per essere con noi questa mattina il presidente della Commissione Finanze della Camera, Maurizio Bernardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Autore della proposta di legge per la nascita di un'agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, ma scopriamo in realtà dalla nuova formula dell'articolato appunto di legge che non si parla già più di agenzia nazionale, onorevole Bernardo, ma di che cosa? Di una cabina di regia, di un comitato nazionale. Adesso avete risistemato anche la denominazione di questo organismo che vorrebbe nascere. Buongiorno intanto. Esatto, buongiorno a voi, a dottoressa Segre. Un comitato di coordinamento che serve ad alleggerire quella che era la prima formulazione di un'agenzia per rendere anche più semplici e veloci le decisioni che dovranno essere adottate da coloro che poi sono i stakeholder, sono i protagonisti tra chi predispone le iniziative in campo finanziario per il mondo delle imprese e anche per le famiglie italiane. Certo, adesso ci faremo raccontare da lei, onorevole Bernardo, soprattutto che ricadute pratiche potrebbe avere l'attività di questo comitato nazionale fra le famiglie che hanno molto bisogno di essere informate appunto sulle questioni finanziarie. Volevo però far raccontare anche a Claudia Segre che cos'è la Global Thinking Foundation, perché noi faremo diverse trasmissioni con questa organizzazione che è appunto un ciclo di trasmissioni che parte da oggi, quindi si alternerà questa fondazione agli altri interlocutori che abbiamo anche sentito nei mesi passati nel nostro percorso di Investire Informati, voi pure siete nati da pochissimo con un obiettivo direi estremamente importante che è perfettamente allineato all'attività di questo nascente Comitato Nazionale per la Diffusione dell'Educazione Finanziaria. Segre. Sì, infatti, come ha ricordato l'onorevole Bernardo, il grosso problema è che se ci sono paesi come l'America e l'Australia che hanno delle strategie di governo di lungo termine con dei piani pluriennali dedicati all'educazione finanziaria e sottolineano come questa può aiutare il sistema economico e la presa di coscienza da parte di famiglie, investitori e evidentemente studenti sull'utilizzo del denaro e migliorare il benessere della società, dobbiamo porci la domanda di dove siamo messi in Italia, e non siamo messi benissimo, siamo fanalino di coda dell'OCSE. E infatti, anche se in realtà è già da qualche anno che stiamo provando a costruire un impianto di legge che in qualche maniera appunto segua anche le altre esperienze internazionali, però non ce l'abbiamo fatta. In realtà molte proposte di legge sono state depositate in Parlamento da varie forze politiche, hanno provato anche le varie forze politiche ad interagire in maniera costruttiva su questo argomento, senza però successo. Sì, infatti, alla luce della crisi che stiamo vivendo, perché stiamo uscendo da una crisi globale, è proprio il fatto di avere una cabina di regia dove privato e pubblico intervengono con le proprie risorse, con le proprie competenze, che può essere la svolta rispetto ai tentativi passati, e soprattutto per annoverarci e farci crescere in termini non solo di classifica ma di efficacia del messaggio su educazione finanziaria. Ed è per questo che come fondazione no profit noi stiamo lavorando su questi aspetti, quindi non solo nel supporto agli studenti con l'elargizione di borse di studio e la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Educazione Finanziaria dell'ABI, ma anche nei confronti degli investitori con un'informazione che sia accessibile, evidentemente gratuita e comprensibile in un momento in cui le famiglie hanno bisogno, quindi non solo per coloro che hanno i patrimoni ma soprattutto per coloro che devono conservare e far fruttare i propri risparmi. Allora lanciamo anche questo invito ai nostri ascoltatori in modo tale che magari anche dalle loro osservazioni possa venire qualche elemento utile per fare in modo che questo Comitato Nazionale poi sia effettivamente anche molto pratico nel suo funzionamento e utile alla platea dei destinatari. Allora vorrei chiedere ai nostri ascoltatori intanto qual è la loro idea di educazione finanziaria. Qual è il concetto finanziario che assolutamente per loro è il più ostico in assoluto, quello che proprio non riescono a capire? Facci un pensiero anche tu, Nicoletta, magari poi così me lo racconti. Faccio una lunga lista, non però devo vero. Dire che da quanto io e Deborah siamo insieme. Esatto, ormai con questa unione formula. Civile della legge Cirinnà, esatto. Sono diventata molto brava. Sicuramente più consapevole su certi più argomenti, perché il primo passo è questo, diventare consapevoli di quelle, no, dottoressa Segre, che possono essere le nostre lacune più che altro, più che le conoscenze. Già farsi le domande, no? E poter avere accesso alle risposte, certo. Non a pagamento e in maniera assolutamente indipendente. Allora, onorevole Bernardo, andiamo subito alla questione pratica della proposta di legge. Ricordo agli ascoltatori che l'intervento in diretta è possibile, come sempre, all'800 24 00 24. Allora, lo ricordavamo prima con Claudia Segre, iniziative di legge sull'educazione finanziaria, ne parliamo da almeno una decina d'anni, no? Praticamente io ho ritrovato questa sequenza, almeno dal 2008 che si tenta di fare un percorso strutturato in questo senso. Si è provato anche spesso a razionalizzare tutte queste proposte di legge che c'erano in circolazione. Perché la sua iniziativa dovrebbe avere successo rispetto a quanto non siano riusciti a fare tutti gli altri parlamentari che in passato hanno tentato la stessa strada? Direi che il fatto probabilmente nuovo dipende che nella procedura interna alla Camera noi abbiamo accorpato i diversi testi di legge, e la novità è che noi abbiamo approvato questa proposta di legge in Commissione Finanze della Camera, attendiamo il parere delle altre commissioni perché possa essere discusso in aula della Camera dei Deputati perché venga approvato in uno dei due rami del Parlamento. Il passaggio successivo sarà assegnarla al Senato perché entro l'anno diventi legge a tutti gli effetti. Quindi l'obiettivo è chiudere questo iter entro l'anno, lei ce lo conferma? Esatto, e buona parte delle forze politiche, ma direi tutti indifferentemente, hanno condiviso il testo poi anche mostrando posizioni diverse, anche perché si tratta di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sia rivolta agli studenti che agli adulti, a coloro che sono nel mondo del lavoro, ma anche ai pensionati. La dottoressa Segre ha centrato il senso della proposta e l'idea di collaborare anche con organizzazioni no profit, con fondazioni, con il mondo delle categorie delle professioni, sarà certamente utile all'interesse generale. Onorevole Bernardo, c'è un punto molto importante contenuto nella vostra legge che è molto articolato, ma insomma non è neanche una legge particolarmente lunga, per cui questo speriamo che contribuisca anche a velocizzare il processo di discussione in Parlamento, quindi al varo definitivo come ci prometteva entro Natale. Un altro obiettivo importante, dicevo, che è quello di responsabilizzare non gli individui che pure devono farlo, ma soprattutto il mondo delle banche in un rapporto nuovo e trasparente. Allora, continuiamo a venire a conoscenza di casi in cui il sistema bancario italiano continua a far sottoscrivere alla clientela prodotti di investimento che non sono per niente adeguati alle loro esigenze. Secondo lei questa norma, questo trend, come potrebbe cambiarlo? Ma, peraltro dico solo che a proposito della proposta di legge ha 3 articoli, quindi questo dovrebbe facilitare la discussione e quindi renderla molto più veloce rispetto ad altre leggi che normalmente sono più corpose. Da questo punto di vista il fatto, diciamo, nuovo è questo comitato di coordinamento che vede tutti gli attori che vanno dai ministeri di competenza alla Banca d'Italia, all'ABI, al mondo della previdenza, del sistema delle assicurazioni, anche degli istituti di vigilanza, IVAS, Consob, il sistema produttivo, e anche coinvolgendo il mondo delle università. Il senso è anche quello di fare e promuovere formazione anche per il personale del mondo bancario, non dimenticando che oggi noi abbiamo approvato come Parlamento italiano delle direttive che vanno anche in questa direzione, che ci agevolano a far sì che la responsabilità di coloro che poi presentano i prodotti rispecchino la tutela del consumatore con certe valutazioni. Questo è anche l'idea che la legge debba dare la trasparenza agli atti, quindi con la maggior consapevolezza di coloro che poi vanno alla fine di un percorso a firmare. Vedremo, noi controlleremo l'operato delle banche e se naturalmente si adegueranno anche a questi nuovi standard di comportamento che lei ci ha descritto, onorevole Bernardo. L'ultima domanda poi la lasciamo. Dalla norma leggo che questo comitato nazionale, appunto, per la diffusione dell'educazione finanziaria in Italia dovrà trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell'Economia tutte quelle informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, appunto, in Italia. Secondo lei, se questa relazione la dovessimo stilare oggi, come potrebbe descrivere il panorama con il quale ci troviamo appunto a confrontarci? Lo sappiamo, siamo molto indietro, ma lei qualche indicazione in più ce la darebbe, visto che per fare questa legge avrà anche un po' studiato le problematiche più diffuse in Italia? Ma direi che innanzitutto l'idea che si tratti di cabina di regia o di un coordinamento, un'agenzia, premesso che a costo zero per la comunità e quindi per i cittadini italiani, perché si usano risorse, esatto, che già ci sono, e strutture, esatto, soggetti ed individui, organismi, esatto, che già esistono, sì. E così come anche la possibilità di coinvolgere personale che viene dai singoli organismi. Detto questo, la cosa che è mancata al nostro sistema, e che diceva anche Claudia Segre, è un'idea di regia complessiva, cioè se voi andate a aprire i siti della Banca d'Italia, di Consob, della Fondazione ABI per l'educazione finanziaria, anche delle singole banche, al di là della formula giuridica, voi vedete una serie di iniziative anche ben fatte indirizzate all'educazione finanziaria. Il problema vero è che si viaggia per compartimenti stagni e non si ha la capacità però poi di veicolare questi messaggi e produrre anche dei format, cioè dei progetti che consentano, certo, anche a coloro che sono fuori dal mondo del lavoro, anche per ragioni anagrafiche, di essere raggiunti. L'idea è usare la tecnologia esistente e trovare anche delle soluzioni che ci consentano di coinvolgere anche i privati e soprattutto il no profit per sensibilizzare sul territorio nazionale. Arrivare alla gente, certo, perché io immagino che con tutte le lodevoli iniziative di cui l'onorevole Bernardo parlava, che una persona, un singolo individuo si vada a collegare con il sito della Consob per andare a così curiosare sui piani di iniziativa di educazione finanziaria ci sembra un po' difficile, per cui evidentemente bisogna strutturare un percorso serio e arrivare in maniera molto concreta alla gente. Grazie onorevole Bernardo, adesso andremo avanti noi con Claudia Segre e peraltro, oltre a continuare a parlare un po' di questa iniziativa appunto appunto in corso, che vedremo, speriamo, alla luce entro la fine dell'anno. Faremo poi magari anche proprio degli esempi concreti sulla base di come va il mercato finanziario, perché tutto questo dovrebbe poi, come dire, aiutarci un po' di più a capire le dinamiche della finanza e le questioni finanziarie più complesse, ma anche quelle che stanno più a cuore di noi cittadini, risparmiatori e insomma cittadini di questa collettività che ha a che fare con tematiche sempre più complesse. Intanto io vi devo anche raccontare cosa succede oggi in borsa. Direi di sì, sono le 11.31. Vado. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Non siamo allo stadio? Avete un'idea di dove possiamo essere con questo rumore di fondo che la regia ci propone? Claudia Segre, Nicoletta. Sì, è un rumore familiare. Risparmiatori imbufaliti, credo fossero sotto casa del ministro Boschi in occasione appunto proprio della risoluzione delle famose quattro banche a novembre, e quando migliaia di risparmiatori si trovarono nel giro di una domenica pomeriggio praticamente tutto il loro risparmio, magari di un'intera vita, vanificato perché le obbligazioni subordinate che avevano sottoscritto presso queste quattro banche non valevano più nulla. Adesso si sta tentando di capire come potranno essere risarcite quasi integralmente. Abbiamo tutto il pacchetto appunto di ristoro che è stato in questa iniziativa di legge pure portata avanti quest'anno. Dovrebbero essere anche qua soldi in arrivo, speriamo a breve, però questo ci dà un po' l'idea di come la pensino sul risparmio qualche volta le persone. Claudia Segre, sono persone che certamente si sono molto fidate dell'istituto di credito al quale hanno consegnato il loro denaro e il loro risparmio, quindi il rapporto di fiducia è la cosa prioritaria di cui si parla anche in questa proposta di legge della quale abbiamo lungamente parlato nella prima parte della nostra trasmissione. Sì. Questa, su questa costituzione di questo Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Sì, infatti qui il problema è dare ognuno il proprio aiuto in termini di competenze, ed è ora che evidentemente anche le persone che possono mettere a fattor comune queste competenze collaborino. Dal nostro punto di vista, personalmente, io vengo da un'esperienza di 20 anni di associazionismo in cui, avendo fatto il docente per tanti anni agli operatori dei mercati finanziari, negli ultimi 3 anni mi sono occupata come presidente del Board of Education dell'Associazione Internazionale. Abbiamo rifatto tutti i testi di esame per i ragazzi che accedono alle sale operative, nonché per i senior. Quindi il mio impegno adesso è rivolgermi invece all'altra parte della barricata, e quindi evidentemente agli investitori e agli studenti. Lavoriamo in una trasmissione, per così dire, intergenerazionale tra gli studenti che ci aiutano nelle pubblicazioni e nei prodotti che faremo e che andiamo a proporre a livello di divulgazione sull'informazione finanziaria, nei confronti degli investitori finali. Questo un po' il messaggio che insieme alla Fondazione Educazione Finanziaria dell'ABI, al Museo del Risparmio di Torino, Eraclito 2000 e alla Fondazione Internazionale di Women's for the Economic and Society stiamo cercando di portare avanti con la collaborazione Camera dei Deputati, quindi fin da subito con dei progetti fattivi. Lo sai, Nicoletta, che Claudia Segre entro un paio di mesi incontrerà Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Vogliamo sapere tutto. Come è andata, esatto. Andrete a raccontare di questa nostra iniziativa italiana? Ma sì, avremo questo incontro con questo forum internazionale dove sarà presente anche Christine Lagarde, e verranno presentati tutti i vari progetti e ripeto ancora una volta, in maniera fattiva si parla di progetti che servono a livello di economia sociale. Io personalmente vengo da una tradizione di famiglia dove sono cresciuta con genitori legati alla borsa e quindi che mi hanno insegnato un'etica della finanza, del modo di fare finanza, di trasmettere finanza e di lavorare nella finanza, ed è questo bagaglio che mi porto dietro e che con gli altri professionisti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico portiamo avanti proprio per cercare di collaborare a questo nuovo comitato nascente. Esatto, e l'aspetto dell'etica della finanza è quello probabilmente su quale si deve lavorare un po' di più. Certamente tutti noi possiamo fare un percorso di crescita per avere una maggior confidenza con questi argomenti, ma dall'altra parte dovremmo avere anche degli interlocutori che non abbiano come unico esclusivo interesse quello di guadagnare dal nostro risparmio, ma di renderci una consulenza adeguata. La trasparenza commissionale è il il costo che a tassi zero di impatto va sui portafogli in questo momento è la più grande preoccupazione. Esatto. Cioè il capire quanto mi costa, cioè preservare e in maniera parsimoniosa quel risparmio che ho e farlo fruttare al netto di costi che sono molto elevati. Già abbiamo della tassazione sul quale non apriamo il capitolo, che sennò non andiamo a casa, ma in più oltre a tasse inutili tipo la Tobin Tax abbiamo anche una situazione di costo dell'amministrazione del denaro che evidentemente dai fondi comuni di investimento alle commissioni di gestione è molto elevato. Certo. Allora, ed è un aspetto che i risparmiatori fanno fatica a capire. Abbiamo uno scenario appunto di tassi zero e quindi è inutile che continuiate a recarvi in banca per cercare di capire se il prodotto di investimento che vi offrono appunto possa avere una remunerazione particolarmente interessante. Più di tanto adesso gli intermediari finanziari non possono offrire, per cui se vi offrono in realtà un rendimento particolarmente elevato al di fuori dal mercato è il primo elemento del quale dovete insospettirvi. Sì, il diamo già qualche prima indicazione di educazione finanziaria. C'è già qualcuno, Nicoletta, che bussa alla porta anche, Sì, ottimo. Adesso io vorrei fare già un esempio. Recentemente è uscita un'emissione, l'emissione della SAIPEM, no? Doveva essere prestata tra 3.75 e il 4.125. Quando lei ci dice queste cifre ci parla del rendimento, rendimento con cui esatto. Questo titolo... Di fronte a un circa 4% diciamo su un'emissione a 7 anni doppia B c'è stata una valanga di richieste, 6 miliardi di richieste. A fronte era aperta anche al pubblico indistinto questa emissione? Sì, certo. Ah. Un'emissione obbligazionaria normalissima. Mm-hmm. Che cosa è successo? Che evidentemente un'emissione ad alto rendimento in questa emissione dove tutti adesso stanno cercando di metterla nel portafoglio. Col bot che è negativo, anche col BTP a media scadenza comunque siamo ben al di sotto del 2%. Quindi, certamente, di fronte a una richiesta di questo genere il sindacato ha apprezzato chiaramente opportunisticamente sulla parte bassa della forchetta, cioè al 3.75%. Il sindacato di banche che organizzava appunto il collocamento. Primo prezzo 101, secondo prezzo siamo arrivati fino a 104, quindi un rendimento del 3% su SAIPEM. E questo è il risultato di un mercato dove i rendimenti si sono appiattiti proprio perché a tassi zero anche le emissioni a più alto rendimento hanno visto una riduzione del rendimento nei conti investitore. La domanda e il supporto che noi vogliamo dare è capire: quell'emittente al 3% a 104 ha ancora un senso o che rischio ci stiamo prendendo di fronte a un alto rendimento? Perché è chiaro che rispetto allo 0% sulla parte breve medio del BTP ovviamente è elevato, ma si sono scardinati tutti i punti di riferimento che distinguevano tra l'alto rendimento pericoloso e il basso rendimento più sicuro. Qui si è tutto appiattito e quindi la discriminante di capire che emittente stiamo prendendo nel nostro portafoglio è importantissima. Certo. E soprattutto a che costo. Per questo noi abbiamo fatto anche tanto sforzo negli ultimi mesi nell'invitare gli ascoltatori ad impegnarsi a leggere un po' di più le pagine della finanza, della cronaca nazionale ed internazionale. Se comprate il quotidiano non saltatele proprio a pie pari le pagine appunto finanziarie. Lo so che qualche volta sono noiose, che magari le vicende, non so, di Saipem o di Telecom e di tanti altri grandi soggetti della finanza non ci interessano, ma magari tra le pagine del giornale c'è anche quel tema che invece ci arriva direttamente dentro al portafoglio e qualche volta nostro malgrado l'abbiamo scoperta amaramente in questi anni. Allora, vuoi leggere qualche messaggio, allora, Nicoletta? Non conosco, ci scrive un ascoltatore, il costo del mio conto, non sono in grado di capire le voci di spesa, non so quanto costi comprare e vendere un titolo quotato, costo totale intende, queste in un unico SMS mi sembra che l'ascoltatore abbia messo tanti spunti, e no? Sono di proprio peraltro le questioni di base normali, della nostra vita BC. Finanziaria, ecco. Gestione del conto corrente. Nelle vostre iniziative appunto nella costituzione di questo comitato si per esempio costruirà anche un percorso per aiutare le persone a leggere l'estratto conto e non a lasciare lì la busta chiusa. Assolutamente, nel quello che stiamo del... facendo con l'onorevole Bernardo intanto è un instant book al netto della crisi che abbiamo passato, di quei riferimenti che ci servono per il conto corrente, per la previdenza, la parte di assicurazione. Ce ne sono già tanti, Segre. Le associazioni dei consumatori si sono ammazzate di lavoro negli ultimi anni per diffondere anche con instant book iniziative cartacee, se proprio l'online non ci piace. Che cosa dovrebbe avere di diverso la vostra iniziativa? Allora, il primo punto è che noi l'abbiamo fatto con gli studenti del Master Eraclito 2000 e quindi e con i professionisti della fondazione per arrivare al punto di spiegare anche l'aspetto, ad esempio, delle subordinate in modo chiaro e semplice e al di fuori delle definizioni definizioni da, diciamo così con tutto rispetto, della Treccani, e quindi un qualcosa che sia accessibile come spiegazione. Il tutto inserito in un progetto più ampio che decollerà da gennaio, di un percorso di informazione corroborato da pillole formative, per arrivare poi a ampliarlo e renderlo accessibile a tutti, sul capire i rischi di mercato da un punto di vista tecnico e del valore e degli emittenti. Quello che diceva prima la collega, ad esempio, se io vado a comprare un titolo che è molto illiquido, che ha un rapporto tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita molto ampio, devo saperlo, perché come lo compro mi accollo già un costo. Molto liquido, molto illiquido significa che sul mercato non c'è il soggetto pronto a comprarlo. Esatto, quindi banalmente un titolo che vale sul mercato 100 a 103, se io lo compro a 103, evidentemente se lo devo vendere già ci perdo 3 punti. Questo è un semplice esempio per far capire che se io vado su un titolo molto illiquido, nel momento in cui lo dovrò vendere, anche se vedo che il prezzo sale, avrò già un costo iniziale di partenza. E lo stesso c'è su tutti i prodotti strutturati, sui prodotti legati al rischio valutario, così come c'è nelle commissioni dei fondi comuni di investimento. Certo. Questo tipo di comunicazione deve essere fatta, e sono convinta che nel momento in cui il privato, le banche, ognuno farà il suo passo per andare incontro a questa esigenza degli investitori, non solo il risparmio sarà gestito in maniera migliore e più fruttuosa per il nostro paese, ma soprattutto aiuterà le famiglie a capire meglio il proprio conto e come limitare questi costi e ottimizzare quello che sono le rendite. Bruno, adesso veniamo da lei, ma prima devo andare a sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane. Solo 30 secondi di pazienza, tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Cuore e denari. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te. Non lo so, Daniele Silvestri deve farci un monumento per quanto divulghiamo la sua canzone, sì, sulle monetine. L'ha prenotato, ci stanno lavorando, arriverà. Allora, l'educazione finanziaria, un tema naturalmente molto importante. Che lavoro si sta facendo in Italia? Ne abbiamo parlato all'inizio, appunto, proprio di questa iniziativa di legge, e speriamo che diventi legge entro la fine dell'anno, in corso di discussione in Parlamento, per creare questo, proprio questa, per definire questa strategia nazionale per l'educazione finanziaria e dare il via ad un comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria. Stiamo provando anche a capire quali nei prossimi mesi saranno le ricadute concrete, l'utilità per i nostri ascoltatori, che sono a caccia soprattutto di un comportamento etico da parte degli intermediari finanziari. Bruno da Roma, buongiorno. Buongiorno. Volevo soltanto, mi sembra che molte volte vi dimenticate una cosa importante che ho letto sul Sole parecchio tempo fa e che ho usato. L'educazione, giustamente, finanziaria, ma può e deve cominciare per esempio dalle scuole elementari. Ora c'è un bellissimo, e qui se l'ho letto sul Sole, l'ho usato e funziona, un bellissimo programmino che viene distribuito gratuitamente, basta fare Money as you grow, e esce fuori l'Aquila del governo americano, che con un giochetto, esatto, impara, facendo giocare i bambini all'elementare, gli dice come funziona il denaro e come funziona. Poi alla scuola media, quindi è un gioco che giocando insegna ai bambini e quindi ai ragazzi, più andando avanti in età, a come avere il rapporto da avere nei confronti del denaro, che è la base per tutto quello che state dicendo. Bruno, guardi, la legge lo dice con grande chiarezza. La scuola in realtà in questi anni si è mossa, anche in questo caso in ordine sparso, con iniziative di alcune istituzioni. L'ANASF, per esempio, è andata nelle scuole superiori, l'Organizzazione dei Promotori Finanziari e tanto altro ancora. Ma anche lì, Claudia Segre, giustamente, è un percorso che va razionalizzato, quello che coinvolge il mondo della scuola. E Money as you grow, cioè il denaro che ti segue nel tuo percorso di crescita, è un esempio veramente molto bello. Potremmo fare qualcosa del genere? Sì, assolutamente. Il 40% degli studenti italiani, oltre i 18 anni evidentemente, hanno un conto corrente, usano carte di credito prepagate e non. Comprano tramite smartphone, app, certo, e altro. Esattamente. Quindi quello che abbiamo fatto, e anche grazie, nella giuria avevamo anche la dottoressa Rosciani, nel test pilota che abbiamo fatto per le scuole superiori in alternanza scuola-lavoro, nel preparare la loro startup, spiegargli cosa vuol dire fare l'imprenditore o il lavoro invece da impiegato, questo è uno stadio avanzato di quello che sarà poi l'output finale con il Ministero dell'Istruzione e la FEDUF dell'ABI. Ma altre tante iniziative si faranno, perché solo crescendo da dalle generazioni dal basso, riusciamo poi ad avere degli investitori consapevoli. Quindi dobbiamo lavorare sui due lati per cercare di crescere insieme in questa consapevolezza. La scuola elementare però sarebbe veramente un bel colpo poterci arrivare con dei piani, non lo so, a quel livello sulla scuola primaria. Sì, a livello, all'interno di FEDUF, già nel quale noi siamo partecipanti sostenitori, loro hanno già fatto delle iniziative grazie ad alcune banche che proprio hanno lavorato con le scuole, hanno fatto i salvadanai, hanno fatto capire ai ragazzi cosa vuol dire il risparmio vero. È chiaro che poi c'è tutto l'aspetto digitale da curare, e quindi ringrazio l'ascoltatore perché questo è uno degli aspetti su cui lì si sta lavorando con i nostri partner. Allora, intanto io continuo ad invitare i nostri ascoltatori all'800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Adesso ne riprenderemo anche qualcuno che in realtà non è stato, per esempio, particolarmente soddisfatto della resa di un piano di investimenti, appunto, evidentemente tutti i rischi di queste soluzioni proposte non erano state ben spiegate. Poi abbiamo sempre il sorpresone finale. Molti ascoltatori che, per non saperne leggere né scrivere, per non avere a che fare con tutto questo, continuano ad affidarsi a ciò che reputano molto solido quanto investono, oro e diamanti. Ma Claudia Segre, anche questo è un approccio sbagliato, perché non c'è nulla che non abbia rischio. Assolutamente, perché anche i parametri che prima legavano l'oro a un discorso più o meno di inflazione e mercato, nel momento in cui stiamo passando in un scenario dove di assenza dell'inflazione, di tassi negativi, tutti questi parametri di riferimento di un tempo sono saltati. Lo vediamo sulla volatilità del petrolio come dell'oro, quindi i normali beni rifugio in questo momento sono sottoposti alla stessa volatilità e rischiosità di altri strumenti finanziari più complessi. Assolutamente. Vorrei commentare con lei anche un'altra questione. Allora, ieri, mentre stavamo preparando appunto la nostra trasmissione, mi sono imbattuta in questa frase, poi le dico di chi è: se la clientela capisce meglio quello che compra, si rinsalda la fiducia con beneficio di tutti, venditori e compratori. Ci si riferisce naturalmente al rapporto tra banca e cliente, intermediario finanziario, e si parla in questo contesto appunto proprio di una relazione come se ci fosse fra un cliente e un esercizio commerciale. Quindi questo rapporto fra venditori e compratori, quando lo si associa al mondo della finanza e della consulenza finanziaria, mi ha suscitato qualche dubbio. Questa frase l'ha detta Salvatore Rossi, che è un alto dirigente della Banca d'Italia, oltre che presidente dell'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza sul Mercato Assicurativo. Ma perché, dottoressa Segre, un investimento finalizzato al risparmio deve essere fatto passare come un prodotto al supermercato che si compra? Anche questo mi sembra un aspetto da contestare. Un investimento è una scelta di vita, non è un detersivo o una scatola di biscotti. E io penso che lui si riferisse a quella che deve essere la consapevolezza nel prodotto che vado ad acquistare, e quindi alla libera scelta che ha l'investitore nell'informativa che riceve, se acquistare il prodotto, ad esempio l'olio d'oliva di olive italiane, e pagarlo certamente di più di un olio d'oliva fatto di olive europee o addirittura di olive extra europee, con tutti i rischi connessi. Quindi l'informativa deve essere a disposizione, deve essere gratuita, deve essere completa. Come poi, un'etichetta. Esattamente. Poi chiaramente il paradosso del prodotto commerciale, sono d'accordo con lei che è portato all'estremo, però secondo me si riferiva proprio al fatto della necessità di arrivare a questo livello di capillarità nell'informazione, che deve essere esattamente come i prodotti dei supermarket sullo scaffale, a disposizione di tutti. Esatto, in realtà poi le soluzioni di investimento hanno come accompagnamento il cotè del prospetto informativo, è che spesso questi documenti sono sempre incomprensibili. Ma sì, ma per non parliamo poi dopo del livello di complessità e del prospetto che per legge in realtà i soggetti devono ottemperare, perché anche la banca che ti consegna il prospetto informativo da lì si, come dire, libera anche da tutte le responsabilità di averti magari dato un suggerimento sbagliato, ma in realtà lo deve fare per legge e loro sono obbligati, no? Sì, sono obbligati per legge, però il problema sta sempre nella completezza dell'informazione. Mi è capitato tantissimi anni fa, di fronte a un prodotto strutturato con un tunnel di uscita con delle commissioni evidentemente molto onerose, uno dei colleghi che ha preparato questo strumento, gli ho fatto notare che portare uno strumento del genere a un cliente impegnava il cliente per tanti anni, e lui mi ha risposto: beh, puoi anche evitare di dirgli che c'è il tunnel. È proprio questo che noi dobbiamo evitare. L'approccio dopo crisi è proprio questo: queste cose non devono accadere. È ancora amica di questo collega? No, fortunatamente è un collega che, di cui ho perso scaricato dimenticato. Sì, sì, sì. Che lavorare con Claudia Segre non deve essere proprio tanto facile. Molto stimolante. Allora, io non riesco a sentire Antonio da Roma perché abbiamo terminato la trasmissione. Voleva raccontarci che aveva stipulato per finanziare il piano di studi di sua figlia una polizza assicurativa. Alla fine del piano gli è rientrato molto meno capitale di quello che ha versato. Grande problema dell'industria assicurativa. E ne dobbiamo riparlare. Ci facciamo un'altra puntata. Partiremo da questa, Claudia Segre. Noi abbiamo parlato di mercati, ma i temi usciti erano davvero tanti. E con questo argomento abbiamo ripreso Investire Informati. Ci ritorneremo giovedì prossimo. Grazie a Claudia Segre. Grazie a voi. Buona giornata a voi che ci avete ascoltato. Torniamo domani. Buona giornata. Buona giornata.